Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi, su richiesta dell'Italia, si è tenuta una riunione dell'OMS sulla riapertura delle scuole in sicurezza. È un grande tema globale su cui lavoriamo col massimo dell'attenzione, perché il diritto all'istruzione e il diritto alla salute devono camminare insieme. Come sentite, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dalle parole del Ministro della Salute Speranza, il coronavirus che ha sconvolto il mondo, ve l'ho raccontato naturalmente in questi mesi, volenti o nolenti, continua purtroppo a essere il protagonista negativo delle nostre vite, quindi mio malgrado anche di questa prima puntata di questa nuova stagione di Effetto Notte che inizia proprio oggi, quindi torno con voi per riprendere a raccontarvi i fatti del giorno dall'Italia e dal mondo, raccontarvelo a fine giornata insieme agli ospiti, cercando per quanto mi sia possibile di non appesantirvi troppo, viste anche appunto le notizie dominanti, perché ritengo che l'informazione debba essere ascoltata, ma anche che debba essere ascoltabile. Detto questo, ovviamente ci sono molti altri temi, parleremo del calcio, in particolare quello maschile che riparte, parleremo di quello che succede, continua a succedere purtroppo negli Stati Uniti, poi la scuola che è centrale e però sempre tema legato al coronavirus. Detto tutto questo, dicevo, se siete pronti e presenti all'appello della nuova stagione di Effetto Notte, possiamo partire. L'epidemia di coronavirus, contagi in calo in Italia, ma anche i tamponi, 996 casi e 6 morti nelle ultime 24 ore. Scuola summit per una strategia comune in Europa, ma le regioni italiane si spaccano sulla data di rientro in classe. Intanto raggiunto l'accordo tra Stato e regioni sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Economia, crescita in calo del 12,8% nel secondo trimestre, entrate in rialzo oltre le attese ad agosto. Migranti, rinviato lo sciopero a Lampedusa, il sindaco e il presidente della Sicilia saranno a Roma da Conte mercoledì. Stati Uniti, il presidente americano Trump minaccia, fate pulizia a Portland o la farò io. E Biden, il candidato democratico, lo sferza e dice si sente debole e fomenta la violenza. Maltempo, rientra l'allerta per il fiume Adige e si torna a circolare sulla A22, prosegue la ricerca dei dispersi. Clima, secondo gli esperti, il ghiacciaio della Marmolada durerà solo altri 15 anni. Paperoni del mondo, Elon Musk batte Mark Zuckerberg, è il terzo uomo più ricco al mondo. Partiamo quindi, tanto per cominciare, dai dati sull'epidemia di coronavirus in Italia. Prosegue il calo dei contagi, che scendono sotto i 1000 nel nostro paese. L'incremento delle ultime 24 ore è stato di 996 rispetto ai 1365 di ieri. Sale leggermente il numero delle vittime, 6 in un giorno, ieri erano 4. Questo è quello che emerge dai dati del Ministero della Salute, e scende comunque considerevolmente il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, quindi anche qui si capisce un po' le oscillazioni così diverse da un giorno all'altro. Sono stati 58.518, quindi oltre 20.000 in meno rispetto al giorno precedente, che erano stati 81.723. E poi la riapertura delle scuole è il problema naturalmente centrale per la gran parte dei paesi. Quelli europei cercano una strategia comune, così nel summit che si è tenuto oggi, di cui il ministro della Salute Roberto Speranza è stato tra i promotori, sono state delineate alcune linee guida valide per tutti. Ripartire in sicurezza, mascherine, piano per lezioni online in caso di chiusura delle scuole e malati a casa. A dettare le linee guida per una scuola a prova di Covid è la dichiarazione congiunta sottoscritta dal direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, Hans Kluge, e il ministro della Salute, Roberto Speranza. I paesi europei dell'OMS si dicono pronti a cooperare per far tornare la scuola operativa. Domani intanto si riparte, gli istituti riapriranno con i corsi di recupero. Poi dal 14 tutti in aula, come previsto quest'anno dal Ministero zero è deliberato dalla maggior parte delle regioni, che ora però si dividono sulla data della riapertura, anche perché il 20 e 21 settembre si vota e le scuole sono destinate a chiudere pochi giorni dopo l'inizio del nuovo anno scolastico per consentire l'apertura dei seggi elettorali. E così nella provincia di Bolzano si tornerà a scuola il 7 settembre, in Friuli il 16, in Sardegna il 22, in Puglia e Calabria il 24, ma il fronte rischia di ampliarsi. Abruzzo, Basilicata e Campania stanno infatti valutando la situazione. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A Verbania però, in Lombardia, all'Istituto Superiore Cobianchi, l'attività didattica è stata sospesa a causa della presenza segnalata dall'ASL di un positivo al Covid all'interno della scuola. L'istituto ha chiuso per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali, ha spiegato il vicepreside Mauro Agrati, oggi a Effetto Giorno al microfono di Alessio Maurizio. Sabato pomeriggio siamo stati contattati da un responsabile dell'ASL che ci ha comunicato che una persona che era entrata nell'istituto è risultata positiva. Fortunatamente, essendo una scuola molto grande, avevamo distribuito in aule molto lontane tra loro gli studenti che partecipavano o ai corsi PON oppure sostenevano gli esami integrativi di idoneità. Ecco, allora perché poi siete, diciamo, dovuti in qualche modo arrivare alla misura più drastica, cioè sospendere l'attività? Vogliamo innanzitutto far sanificare i locali, dove, che sono, non sono tantissimi per fortuna, dove questa persona ha stazionato durante questa settimana. In base a quali tipo di linee guida avete preso questa decisione? Dire il buon senso sarebbe un'offesa a chi ci governa, però comunque che lavoriamo anche col buon senso in attesa di avere delle linee guida assolutamente definitive. E poco fa, la notizia di poco fa, è stato trovato l'accordo sul trasporto pubblico locale nella conferenza unificata tra governo e regioni. A quanto si apprende da fonti ministeriali, l'intesa riguarda una capienza massima del trasporto pubblico locale dell'80%, che può arrivare al 100% per distanze al di sotto dei 15 minuti. Anche di questo comunque parleremo tra poco con un ospite. Altro nodo all'attenzione del governo, quello dei migranti. Dopo le proteste di Lampedusa, il sindaco dell'isola e il presidente della Sicilia Musumeci sono stati convocati a Roma mercoledì dal presidente del Consiglio Conte. A Lampedusa è attesa nella notte la prima delle altre tre navi inviate dal Viminale per la quarantena dei migranti. Dei 1.500 arrivati nei giorni scorsi, quasi 1.200 si trovano ancora nell'hotspot dell'isola. Tra di loro al momento nessuno è risultato positivo al Covid. Altri 300 in giornata sono stati trasferiti a Pozzallo e a Porto Empedocle. Nelle ultime ore il peggioramento delle condizioni meteo ha fermato gli sbarchi. Nel frattempo, dopo l'invito a Roma da parte del Premier Conte, il sindaco di Lampedusa Martello ha deciso di sospendere lo sciopero generale, minacciato per spingere il governo a farsi carico dei problemi legati all'accoglienza sull'isola. All'incontro, in programma mercoledì, prenderanno parte anche il governatore siciliano Musumeci e i ministri Lamorgese e Gualtieri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Giustamente qualche ascoltatrice o ascoltatore che scrive senza neanche che abbia ricordato il numero, quindi vi ringrazio perché ci sono un sacco di bentornata, di affetto, eccetera. Mi ricorda giustamente che Verbania è in Piemonte, non in Lombardia. Allora approfitto per ricordarvi sia pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp, soprattutto WhatsApp, che potete inviare al 349-238-6666. Il governatore della Sardegna, presidente della Sardegna, Solinas, ha dato mandato ai legali della regione di valutare il danno reale della campagna, dice, mediatica seguita al boom dei contagi nell'isola a ridosso di Ferragosto. Lo dice la vicepresidente della giunta Alessandra Zedda di Forza Italia a margine di un vertice con tutti i segretari del centrodestra. Parliamo di economia, perché nel secondo trimestre il prodotto interno lordo italiano è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti del secondo trimestre 2019. Poi ci occuperemo anche di questi aspetti, naturalmente, perché una delle grandi sfide è quella dell'economia che aspetta il governo. Positivi dati provvisori invece sulle entrate tributarie acquisiti al 20 agosto, che mostrano un andamento superiore alle attese e una situazione in via di miglioramento per l'economia italiana. La politica, la direzione del Partito Democratico deciderà la posizione del partito sul referendum. Sapete che si vota tra il 20 e il 21 settembre e poi ne parleremo naturalmente in questi giorni anche per chiarire i termini, l'argomento del referendum eccetera, sul taglio appunto dei parlamentari è stata convocata la direzione del PD a quanto si apprende lunedì 7 settembre. Questo è quanto deciso la segreteria DEM convocata in videoconferenza dal segretario Zingaretti. E ora all'estero con gli Stati Uniti, il presidente americano Trump a proposito del disordine, degli scontri violenti dopo il ferimento in cui è rimasto paralizzato, il ferimento di un altro afroamericano, Trump minaccia: fate pulizia a Portland o la farò io. E intanto il suo avversario, il candidato alle presidenziali democratico Biden, lo sferza e dice si sente debole e fomenta quindi la violenza. Poi ci collegheremo per questo con gli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece Israele, il primo volo commerciale c'è stato tra Israele e gli Emirati Arabi dopo l'accordo di normalizzazione tra i due paesi. È decollato da Tel Aviv per arrivare ad Abu Dhabi, dove è in corso il primo incontro bilaterale tra i due paesi. Vedevo anzi una notizia pochi istanti fa ulteriore che riguarda il Medio Oriente. Fonti israeliane, uscita pochissimo, poco tempo fa questa agenzia, pochi istanti fa, hanno confermato che sono state raggiunte intese tra Hamas e il Qatar sulla crisi con Israele. Secondo queste fonti c'è l'impegno del Qatar a aumentare le somme per la striscia di Gaza e di dare un contributo contro il coronavirus. Israele riaprirà da domani il valico commerciale con Gaza di Kerem Shalom. Rientriamo sulle questioni italiane. Dopo i nubifragi di ieri, parliamo di maltempo, l'allerta per il fiume Adige, si torna a circolare sulla 22, pioggia e grandine intanto a Cagliari. A Verona la piena dell'Adige è passata senza conseguenze, ma proseguono le ricerche dei due dispersi, un uomo caduto nel fiume all'altezza di Ponte Pietra e di un'altra persona che si sarebbe lasciata trascinare dalla corrente da Ponte San Pancrazio. In Alto Adige la situazione sta lentamente tornando alla normalità, la statale del Brennero resta però interrotta a Compodazzo. Da stamane la 22 è riaperta e rientrati a casa tutti gli sfollati. In Valtellina, sorprese in una zona impervia dal temporale, tre persone sono state soccorse. Bloccati da fango e acqua, due cicloturisti sono stati tratti in salvo a Capalbio nel Grossetano. A Massa oggi è lutto cittadino per la morte delle due sorelle di origini marocchine travolte da un albero all'interno di un campeggio. La procura ha aperto un'inchiesta, omicidio colposo, l'accusa ipotizzata al momento a carico di ignoti. Stamane il maltempo ha colpito anche il sud della Sardegna, danni e disagi, in poche ore è caduta la pioggia di un mese. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 ore. Adesso parliamo di Rete Unica. I consigli di amministrazione di TIM e Cassa Depositi e Prestiti sono per il via libera all'accordo. Parola ai consigli di amministrazione di TIM e Cassa Depositi e Prestiti. Il board della compagnia telefonica è chiamato ad approvare il primo tassello del percorso che porterà alla nascita di FiberCop, il veicolo societario in cui confluirà la rete secondaria di TIM con il fondo USA KKR, pronto a entrare nel capitale insieme con Fastweb. Il percorso per la nascita di una società unica delle reti poi è tutto da costruire, con un memorandum fra TIM e CDP che si limita a definire i principi sui quali lavorare nei prossimi tre mesi, anche se con un punto definito: maggioranza societaria per TIM, ma governance a trazione CDP a garanzia di quella indipendenza e terzietà richieste dai competitor della compagnia telefonica. Obiettivo integrazione delle reti dunque. Sul percorso gravano però molte incognite, fra queste la quota di Enel in Open Fiber. E comunque alla base c'è sempre il placet dei regolatori. Approdo definito dunque, ma la partita è lunga e non semplice. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamenti climatici e ghiacciai. Il conto alla rovescia per il ghiacciaio della Marmolada. È iniziato molto tempo fa, accelerato però negli ultimi tempi, e i glaciologi dell'Università di Padova, dati alla mano, azzardano una sentenza. Potrebbe il ghiacciaio della Marmolada avere non più di 15 anni di vita davanti a sé. 10 anni fa perdeva 5 ettari di superficie l'anno, negli ultimi 3 si è passati a 9 ettari l'anno. E per chiudere, a parte lo sport di cui parleremo con la ripresa del campionato, le richieste da parte del presidente del calcio italiano Gravina, che dice che bisogna, insomma, sui tamponi cercare di ammorbidire un po' la linea, ne parleremo. Per quanto riguarda invece i paperoni del mondo. Elon Musk, il patron della Tesla, batte Mark Zuckerberg, invece il fondatore di Facebook, è il terzo uomo, Musk, più ricco al mondo. Nel giorno dell'avvio del frazionamento azionario di Tesla, i titoli del colosso delle auto elettriche salgono a Wall Street e volano di oltre 8,7%, facendo arricchire Musk, arrivato a valere 111,3 miliardi di dollari contro i 110,5 di Zuckerberg. Poverino, c'è una differenza, chissà come ci è rimasto Zuckerberg. Allora, diciamo che a questo punto siamo arrivati alla fine della prima parte, quindi della sintesi della giornata, e tra poco, dopo gli aggiornamenti per chi sta viaggiando, naturalmente cominciamo subito con gli ospiti. Intanto ringrazio, faccio un abbraccio collettivo a tutti quelli che stanno scrivendo sulla pagina Facebook di Effetto Notte e attraverso i WhatsApp al 349-238-6666, tutto il loro affetto, la felicità, la gioia per il ritorno di Effetto Notte tradizionale, quello con me, Roberta Giordano, e quindi ripartiamo tra pochissimo con gli ospiti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi per la ripartenza di Effetto Notte, la versione tradizionale, quindi tutti i giorni come sempre a partire dalle 21 vi farò un quadro il più possibile chiaro, esauriente, delle cose più importanti che sono successe in Italia e all'estero, con l'aiuto naturalmente degli ospiti che cominceranno a apparire tra poco in collegamento telefonico. Le notizie più importanti ve le ho sintetizzate, i dati sul coronavirus, la scuola che è al centro naturalmente dell'azione di governo in questo momento, perché si apre il 14 settembre, anche se si va in ordine sparso, poi vi dirò più nel dettaglio. I dati sull'economia, i migranti, ha rinviato lo sciopero a Lampedusa col sindaco di Lampedusa e il presidente della Sicilia Musumeci, che sono stati convocati a Roma da Conte per mercoledì. Quello che continua a succedere negli Stati Uniti, e poi lo sport, di cui approfondiremo i temi alla fine della trasmissione. Oggi, su richiesta dell'Italia, si è tenuta una riunione dell'OMS sulla riapertura delle scuole in sicurezza. È un grande tema globale su cui lavoriamo col massimo dell'attenzione, perché il diritto all'istruzione e il diritto alla salute devono camminare insieme. Quindi un tema di importanza universale, quello dell'istruzione, quello della scuola, che è stato pesantemente colpito, no? Con la pandemia in tutto il mondo di coronavirus. Come ha sottolineato, l'avete sentito, il ministro della Salute Speranza, un tema che è stato al centro, fra l'altro, oggi di un summit tra 53 paesi, un vertice del quale tra l'altro il ministro della Salute Speranza è stato tra i promotori. In questo summit che cosa si è deciso? Si sono delineate le linee guida valide per tutti, che dovrebbero essere valide per tutti. Tra queste, l'esigenza di una pianificazione della didattica a distanza, che comunque rimane un aspetto molto importante nel caso appunto di chiusure, le quarantene, come ci si deve comportare, gli spazi scolastici che devono essere adeguati. E per quanto riguarda l'Europa, il primo punto degli impegni sottoscritti in una dichiarazione congiunta tra il ministro della Salute e Speranza e il direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Kluge, è il primo punto, una coalizione tra stati membri che quindi si muovano tutti nella stessa direzione congiuntamente per cercare di attuare le migliori misure per assicurare l'istruzione a tutti e naturalmente in sicurezza. Anche Conte, presidente del Consiglio, oggi ha ribadito e assicurato che la priorità del governo è quella di riaprire per l'appunto la scuola in sicurezza, e ormai siamo, vi dicevo, al conto alla rovescia, perché ufficialmente l'inizio della scuola in Italia è il 14 settembre, anche se le regioni, vi dicevo, stanno andando un po' in ordine sparso. Per esempio Bolzano, la provincia autonoma di Bolzano, apre le scuole il 7 settembre, la Sardegna il 22 settembre, l'Abruzzo il 24, giusto per fare qualche esempio. Poi c'è la Francia, nel pieno ancora dell'epidemia, che domani riparte, anche se i dati sono molto negativi e con la preoccupazione di molti genitori. Comunque oggi è stata la riunione del Comitato Tecnico Scientifico, e quindi che ha delineato ulteriormente le misure da adottare. Si rientra a scuola quindi con alcune certezze e ancora con alcune perplessità. Fra l'altro, domani le scuole si devono preparare per riaprire per i corsi di recupero, Fra le indicazioni, niente lezioni a distanza, ma in presenza e senza mascherina, a meno che non sia possibile il distanziamento fisico tra gli studenti. L'ingresso dei ragazzi a scuola potrà essere scaglionato e poi sarà una decisione che sarà presa in autonomia dai vari istituti. Ogni scuola fornirà quotidianamente le mascherine per i ragazzi, le ragazze e tutto il personale scolastico. E poi, in caso di febbre oltre 37,5 gradi, i genitori dovranno essere avvisati, dovranno poi a loro volta rivolgersi al pediatra, al medico di famiglia. Insomma, ci sarà tutta una procedura, anche se il virologo Andrea Crisanti, che sapete è stato chiamato anche in questi giorni dal governo per avere alcuni suggerimenti, suggerisce a proposito di questo di rilevare la temperatura a scuola, non a casa come invece sarebbe stato disposto dal Comitato Tecnico Scientifico, e di abbassare la soglia non a 37,5 ma a 37,1, a quel punto far stare a casa i ragazzi. Poi si è parlato della quarantena per gli altri. Intanto dall'opposizione molte critiche, dicono che il governo non è in grado, insomma, di riaprire in modo organizzato e sicuro la scuola. Critiche in particolare da Salvini, leader della Lega, alla ministra dell'istruzione Azzolina, che dice è uno tra i ministri più incapaci. Azzolina però ribadisce: già a giugno è stato varato il piano per la ripartenza di settembre, preparato insieme ai tanti attori del sistema scolastico e istituzionale, da allora non ci siamo mai fermati. Allora chiamo in causa uno di questi protagonisti, che è Patrizio Bianchi, professor Patrizio Bianchi, che saluto, grazie di essere tornato. Buonasera a tutti. Già coordinatore della Task Force, ricordo, del Ministero dell'Istruzione, professore ordinario di Economia e Politica Industriale, Economia Applicata all'Università di Ferrara. Tra l'altro, professore, il vostro compito di Task Force per la scuola è finito con la fine di luglio praticamente. Sì, sì, noi abbiamo consigliato il 13 luglio e il 31 luglio abbiamo concluso i nostri lavori. Che ne pensa di questi pochi giorni che mancano e della pianificazione e organizzazione che si sta delineando? Beh, dunque, tre cose. Il primo, credo che sia un dovere per tutti lavorare congiuntamente per riaprire le scuole. Questo è assolutamente importante non solo per i nostri ragazzi ma anche per tutti noi. Secondo, mi è sembrato una buonissima cosa la cosa che ho detto lei prima, cioè che finalmente tutti i paesi si stanno muovendo assieme. Cioè questa idea che la pandemia è globale e quindi globalmente bisogna trovare il modo di muoversi assieme, però nella fiducia delle persone. E quindi la terza cosa che vorrei sottolineare, che noi avevamo indicato già a suo tempo, era regole nazionali però che vengano applicate con buon senso e con ragione dalle diverse scuole, perché le realtà sono diverse, diversa è una scuolina di Val d'Aosta, diversa è una scuola tecnica a Palermo. Professore, a proposito delle critiche nei confronti del governo, della ministra Azzolina, lei ritiene che a questo punto, a 14 giorni dalla ripartenza, anche se dicevo appunto diverse regioni aprono prima, aprono dopo, cosa ne pensa del fatto che le regioni si comportino in modo autonomo, visto che c'è no, questa prerogativa? Aspetti, qua stiamo perdendo anche di vista quelle che sono le regole. In Italia il calendario scolastico da sempre è delle regioni. Questo va segnalato, non è una cosa nuova. Sono le regioni che indicano la data di apertura. Questo è stato è così da sempre, almeno da quando ci sono le regioni. Ma a proposito di chi? Adesso, certo, mi scusi professor Bianchi, ma a proposito per esempio di chi apre prima, non so, per esempio la provincia autonoma di Bolzano il 7, lei ritiene che rispetto a quello che si sta facendo siamo pronti? No, guardi, la provincia... Provincia autonoma di Bolzano, autonoma perché Trento e Bolzano hanno le stesse caratteristiche delle regioni, ha sempre aperto prima perché nel loro calendario scolastico, ad esempio, loro usavano di più i giorni di differenza per prolungare il Natale, perché Bolzano è un posto in cui è più importante tenere a casa i ragazzi nel colmo dell'inverno piuttosto che non anticipare. Per allungare l'estate. La differenza è stata sempre fatta proprio per questo motivo, perché le situazioni sono differenziate. Ma lei che è stato all'interno della task force appunto che ha organizzato, delineato, pianificato questo rientro a scuola, ritiene che si parta in sicurezza nonostante appunto le critiche dell'opposizione? Noi il nostro comitato, perché la parola task force confonde, noi eravamo il comitato degli esperti per guardare anche oltre il coronavirus, per cui anche in questo caso devo fare due considerazioni. Primo, le norme sanitarie le ha sempre date come deve darle il Ministero della Salute e la Protezione Civile. Noi abbiamo ragionato di più sui contenuti e credo che sarebbe opportuno anche in questo momento, proprio come fatto di igiene mentale, non soltanto ragionare sulle condizioni sanitarie di apertura, ma anche ragionare sul fatto che la scuola è molto di più dei vincoli sanitari. I vincoli sanitari sono necessari, ma bisogna ragionare sulla scuola e sui contenuti della scuola. Bisogna tornare ad avere una scuola che si sente propria. Su questo devo dire due cose. Devo dire che da troppo tempo le famiglie sono assenti dalle scuole. Nella legge italiana è previsto che le famiglie possano partecipare agli indirizzi della loro scuola e dall'altra parte il territorio diventa importante. Bisogna riscoprire, oltre alla scuola in quanto tale, in quanto edificio chiuso, che quella scuola è dentro un territorio, che quella scuola è a sua volta fatta dalle famiglie, quindi bisogna tornare in maniera partecipata a vivere la vita della famiglia. Invece io vedo che tutti stiamo guardando la televisione per aspettare le regole che ci vengono date dall'alto. Guardi che in Italia esiste dal 1997 un principio che si chiama l'autonomia scolastica, che è proprio quello che permette di avere delle regole nazionali per ognuno responsabile, perché siamo tutti responsabili in questo paese, almeno questo è quello che dovremmo sottolineare con forza, le applica. Certo. Per cui la situazione di Bolzano è diversa dalla situazione. Chiaro. Le piccole scuole di Bolzano, dove hanno un problema, cioè una caduta demografica che ormai da anni pone il problema che bisogna tenere aperte le scuole, è diverso magari dai grandi centri urbani dove abbiamo concentrato molti ragazzi. Professor Bianchi, lei naturalmente si riferisce e vuole guardare, dice, come anche la stessa task force ha fatto, oltre a livelli anche più alti, certo. Però è chiaro, è abbastanza palese, insomma, che in questo momento la grande preoccupazione è ovviamente per una questione di sicurezza, di salute. La ministra Azzolina, per esempio, in questa lettera che ha inviato ai docenti, ai presidi, a tutto il personale scolastico oggi, ha scritto tra i vari passaggi, dice: non era mai successo tutto questo, ma ce la faremo, ci troveremo, dice, a convivere con regole di sicurezza da rispettare con una maggiore attenzione agli aspetti sanitari. Non era mai successo prima, so che c'è preoccupazione, è comprensibile, perché per esempio tanti docenti non vogliono rientrare, insomma la situazione è complicata, dice, ci darà però sostegno alla garanzia del gran lavoro fatto, lo dico senza alcun trionfalismo ma con soddisfazione, dati alla mano, dice la ministra Azzolina, nessuno in Europa si è impegnato così tanto nei mesi estivi per preparare la scuola a questa nuova stagione. Ma guardi, io al di là della ministra Azzolina vedo i presidi, ho visto tanti professori, ho visto uffici scolastici regionali, cioè non dimentichi che la scuola è un apparato che coinvolge 8 milioni e mezzo di studenti, 1 milione di docenti, quasi 1 milione di personale, se lei aggiunge a questo tutte le famiglie, la scuola coinvolge metà della popolazione italiana. Allora io credo che in questo momento la cosa importante non sia soltanto guardare il ministro. Il ministro rassicura la scuola italiana, ma la scuola italiana sono fra ragazzi, personale che lavora e famiglie, sono 20-22 milioni di persone. Cioè ho l'impressione che noi dovremmo anche sfuggire dalla facile tentazione di pensare che tutto il problema della scuola sia demandato ad una persona, ad un'organizzazione. Bisogna invece spingere di più le famiglie, così come permette la legge, di parlare direttamente con la propria scuola e quindi con i propri dirigenti, quindi con i professori, e dall'altra parte tornare, mi faccia dire la parola, a impossessarsi ognuno della nostra scuola. Perché questa è la grande occasione che abbiamo interesse, davanti. Più coinvolgimento, professore, chiudo. Più partecipazione e responsabilità, e questo di cui ha bisogno la scuola italiana. Un po' alla Gaber. Professore, senta, chiudo dicendo che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ricordato che la pandemia ha creato la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia. La chiusura delle scuole in piena emergenza, si legge, è stata vitale, ma va ora determinata la riapertura degli istituti in modo sicuro, perché lo stop delle scuole può provocare effetti gravi in termini di istruzione, di salute, compresa quella mentale, lo sviluppo sociale, il rischio di trovarsi in un ambiente familiare violento, eccetera. Quindi questo per dare un po' un quadro generale, appunto, di per tutti gli aspetti coinvolti. Bisogna tornare a pensare alla scuola in termini di comunità. Grazie. Per tornare a pensare alla scuola in termini di comunità, questo è quello che fa la differenza. Grazie professor Patrizio Bianchi. Grazie a tutti voi. Grazie. Buona serata. Grazie professore. A proposito di riapertura della scuola, che è una grandissima sfida questa per il governo, bisogna dire che un nodo che sembrava piuttosto problematico è stato risolto, almeno a notizie che sono arrivate pochi istanti fa, perché era fondamentale la questione della riorganizzazione dei trasporti, visto che la gran parte, no, dei ragazzi e delle ragazze, magari quelli piccolini no, ma insomma dalle medie fino alle scuole superiori, università eccetera, devono muoversi con i mezzi di trasporto che possono essere in un momento così delicato dei veicoli di contagio se non vengono rispettate le regole e misure di sicurezza. Però in questa importante riunione tra governo e conferenza delle regioni è stato, dicevo, raggiunto l'accordo. Me lo confermerà il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Buonasera presidente. Buonasera a voi, buonasera. Sì, è stato trovato un accordo che prevede che i mezzi del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, quindi sia per quanto riguarda il ferroviario sia per quanto riguarda gli autobus di linea urbana e extraurbana, possano viaggiare all'80% della capienza della carta di circolazione, quindi si intende in piedi e seduti, con uso ovviamente della mascherina. È un compromesso che riteniamo sia utile per ovviamente far viaggiare tutti quelli che dal 14 o prima, se alcune province autonome partono prima come avete fatto rilevare, consentirà di non lasciare a terra nessuno, e dall'altro dovrebbe consentire un ragionevole margine di sicurezza ovviamente per proteggerci dal Covid. Questa è, diciamo, la fine di tre giorni di lungo lavoro tra Ministero delle Infrastrutture, Conferenza delle Regioni, la nostra Commissione degli Assessori ai Trasporti e il Comitato Tecnico Scientifico, diciamo la base su cui partirà il trasporto quando le città si rimetteranno completamente in moto, diciamo con l'apertura delle scuole il 14. Poi resta un tema gigantesco, perdonatemi, perché siete anche una radio economica, che invece è i costi aggiuntivi sia per l'aumento del servizio, ovviamente per garantire il trasporto così distanziato, sia ovviamente per la mancata tariffazione e bigliettazione e i risarcimenti degli abbonamenti delle aziende del trasporto pubblico locale, che già prima del Covid non stavano in ottima salute, oggi sono in seria difficoltà. Il governo ha stanziato alcuni soldi, 400 milioni, le regioni continuano a ritenere che questa cifra sia largamente insufficiente, il governo chiede di verificare sulla bigliettazione prima, durante l'autunno e poi eventualmente andare a conguaglio nel 2021, ma questo secondo noi può portare seri buchi di bilancio alle società partecipate del trasporto pubblico. Però insomma questo riguarda poi il tema dei rapporti tra Stato e Regioni. Per gli utenti la situazione è quella che vi ho descritto. Quindi il buon compromesso è stato raggiunto, siete soddisfatti, resta poi da parte, cioè appunto nel rapporto vostro con il governo di voi regioni, l'aspetto economico di come riuscire a stiamo ovviamente organizzando in alcuni casi, nelle valli ad esempio della Liguria e dell'entroterra, trasporti aggiuntivi per garantire anche lo scaglionamento dell'ingresso a scuola, così come le direzioni didattiche stanno organizzando nelle varie regioni. Quindi vi è un buco di bilancio già precedente, i mesi del lockdown e i mesi del trasporto molto ridotto tipo giugno, maggio, che hanno prodotto nelle aziende dei trasporti ovviamente degli ammanchi di cassa significativi, importanti, secondo noi assai superiori a quelli stanziati dal governo per compensarli, e oggi anche i servizi aggiuntivi che si andranno a creare. Quindi questo sarà indubitabilmente un tema della prossima legge finanziaria, in cui regioni e governo dovranno necessariamente trovare un accordo se non si vuole il default del sistema del trasporto pubblico locale in Italia. E allora su questo ci riaggiorneremo, presidente Toti. Intanto già una prima tappa questa dell'accordo che avete raggiunto questa sera. Grazie e buon lavoro, presidente. Buon lavoro a voi. Grazie. Bene, allora a questo punto ci prendiamo una pausa, come sempre, per i vostri messaggi WhatsApp 349-238-6666. Ringrazio ancora con un abbraccio collettivo tutti coloro che sono contenti, insomma, del mio ritorno e del ritorno di Effetto Notte. Non vi lascerò, sarò con voi tutte le sere e ci risentiamo veramente a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte avete proprio beccato l'inizio della nuova stagione di Effetto Notte, quindi siete al posto giusto, nel momento giusto, sempre con voi ritorna Roberta Giordano. a questo punto, dopo l'estate, naturalmente vi accompagnerà come sempre ogni sera. Abbiamo parlato con il professor Patrizio Bianchi, che è stato coordinatore della task force del Ministero dell'Istruzione per la ripartenza della scuola, appunto del fatto che mancano pochi giorni, anche se c'è chi inizia prima, chi inizia dopo il 14 settembre, che è la data ufficiale. Ci ha ricordato naturalmente che le regioni sono autonome da questo punto di vista e quindi decidono loro qual è la data migliore, anche se cresce il fronte proprio delle regioni che pensano di rinviare soprattutto dopo le elezioni amministrative, regionali, il referendum che ci saranno il 20 e il 21 settembre. Poi quindi ne abbiamo parlato della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, che ha delineato ulteriormente le regole, le misure da seguire per questa riapertura delle scuole. Invece con il Presidente della Regione della Liguria, Toti, abbiamo commentato la notizia di pochi istanti fa di uno dei nodi che è stato superato al momento, che è legato strettamente alla riapertura della scuola e anche alle attività produttive, che è la questione dei trasporti, dell'organizzazione dei trasporti, sempre appunto in virtù della necessità della massima sicurezza, soprattutto per i ragazzi. E questo compromesso che è stato raggiunto tra governo e conferenza delle regioni prevede che sui mezzi sia coperta la capienza massima all'80%, quindi l'80% della capienza massima, non oltre, con meno posti in piedi, e il pienone, tra virgolette, sarebbe ammesso solo sui viaggi dei pullman, dei treni, degli autobus, eccetera, della metro, inferiori ai 15 minuti. Dopodiché abbiamo anche commentato il fatto che la ministra Azzolina, che sta ricevendo non poche critiche da parte dell'opposizione, ha scritto una lettera ai docenti, al personale tecnico, ha detto: sarà un anno duro ma ce la faremo, stiamo scrivendo la storia. E intanto il consiglio degli esperti al governo dice che alle superiori ci vorrebbe la mascherina anche in classe. Insomma, ci sono diversi giorni prima della riapertura, di notizie ne usciranno ulteriori. Quindi adesso chiedo un breve commento su quanto ha sentito, naturalmente sempre in ascolto di Effetto Notte, il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto, buonasera, bentornata. Ciao, ben ritrovato a te. Sulla scuola e poi naturalmente sugli aspetti economici, perché inutile dirlo, è un autunno di grandissime sfide queste per il governo, dalla riapertura della scuola ma anche dal rilancio dell'economia, no? Assolutamente, le due cose non sono così distanti come potrebbe sembrare. Quello che esce dalla scuola in questo momento è che il governo si è mosso in ritardo. Domani riapriranno i battenti le scuole per cominciare i corsi di recupero e questa sera hanno fatto l'accordo per esempio sui trasporti con la capienza all'80%, sì. Ma vuol dire che bisogna riorganizzare le corse, che bisogna cambiare percorsi, che bisogna considerare come moltiplicare i mezzi, perché non ci a questo sono, proposito, ovviamente. Scusami Alberto, c'è un ascoltatore che ha scritto adesso e dice: il problema è che a fronte di una capienza ridotta sui mezzi pubblici non corrisponderà un aumento delle corse, dei pullman, dei treni, e con studenti e lavoratori di nuovo impegnati full time la situazione sarà critica. Adesso, assolutamente quello che stavo paura dicendo anch'io, perché appunto le procedure anche per dare i fondi necessari ai comuni, alle regioni, insomma a livello istituzionale, che deve magari comprare nuovi autobus, sono farraginose, chissà quanto tempo ci vorrà. Poi riapriremo la scuola e dopo avremo il problema delle elezioni, la richiuderemo di nuovo, magari di nuovo ancora in caso dei ballottaggi. Il 20 e 21 e poi dici il ballottaggio. Sarà un inizio molto inciampato, diciamo la verità. Ma questo sì, dà un po' l'idea della incapacità di affrontare i temi con l'orizzonte lungo, con la capacità di programmazione, che è la cosa che contestano anche tutti i nostri partner europei al nostro paese. La durezza del lockdown era da febbraio-marzo in poi, si è capita subito, la strategia più giusta sarebbe stata quella di ragionare su due binari, quella del pronto soccorso con i provvedimenti immediati della liquidità e tutto il resto, della corsa a tamponare gli effetti devastanti di questo tsunami verso l'economia e verso anche le dinamiche sociali del nostro paese, ma l'altro immediatamente avrebbe dovuto traguardare degli obiettivi sul medio termine, a cominciare dal fatto di come si sarebbero potute riaprire le scuole in sicurezza, anche o magari se costruirne di nuove, perché no, magari utilizzando il MES, che ci avrebbe potuto consentire di avere un'enormità di risorse sbloccabili immediatamente, una parte delle quali potrà tranquillamente essere destinata per esempio a nuova edilizia scolastica. Il famoso MES, anche se Alberto bisogna dire che ricordavo poco fa che la Francia riaprirà domani, anche se i dati sono molto preoccupanti, insomma, di nuovo sulla diffusione del virus, e molti genitori, una grande percentuale di genitori è preoccupata del rientro dei, soprattutto dei più piccoli a scuola. Indubbiamente, è un esercizio che ha una complessità massima, come diceva giustamente prima Patrizia Bianchi. È coinvolto metà del paese all'interno di dinamiche che riguardano appunto i sincronismi sociali delle città, la capacità di gestire grandissimi numeri poi degli addensamenti, sono quanto di peggio nel momento in cui devi affrontare una pandemia, però vanno affrontate, cioè, delle modalità per poterlo fare nelle condizioni della massima sicurezza possibile ci sono. È una cosa che riguarda anche gli altri paesi, però gli altri paesi ci hanno pensato da prima, pensiamo ai tedeschi, che peraltro hanno dovuto chiudere un centinaio di scuole perché si sono immediatamente riaccesi i focolai, però ci hanno pensato prima e con condizioni di diciamo così, di maggior garanzia, nonostante tutto, anche rispetto alla possibilità di aumentare i contagi. È molto pericoloso, per fortuna io vedo anche dal dato quotidiano dei tamponi e tutto il resto che la strategia del governo sta funzionando, perché sì, è evidente che è aumentata moltissimo la capacità di intercettare i focolai micro e di riuscire a sigillarli laddove si creano in tempo quasi reale, e questa è un'ottima strategia perché è l'unica che può evitare un secondo lockdown che sarebbe un esiziale devastante per l'intero paese. Da ogni punto di vista. Senti, il dato di oggi del PIL, prodotto interno lordo italiano, che è in calo del 12,8% nel secondo trimestre, però non va peggio l'Italia di altri paesi europei, no? Da questo punto di vista. No, anzi, da un certo punto di vista la performance congiunturale di quel mese del lockdown e del mese successivo è migliore della Francia, migliore della Germania, migliore della Spagna, però il dato tendenziale annuo è meno 17,7%, il dato dell'export che segnala un calo del 26,5%, si è completamente congelata la dinamica dell'economia, degli scambi, della domanda e dell'offerta, non era mai accaduto prima, e bisogna anche tener conto che il nostro PIL a gennaio e a febbraio viaggiava con lo 0, ed era molto al di sotto ancora del PIL che avevamo nel 2008, prima della grande crisi, quella che consideravamo la grande crisi dovuta alla finanza, e noi quindi siamo molto molto indietro, mentre i nostri competitor, i nostri partner europei a gennaio e a febbraio erano molto al di sopra come PIL del loro PIL del 2008. Questo è un problema, l'Italia ha visto progressivamente restringersi la torta della propria ricchezza, delle proprie risorse che può mettere in campo per appunto crearne di nuova anche di ricchezza, e questo ovviamente su questa tendenza che era già drammatica si è accanita il Covid, e quindi bisognerà vedere che cosa succederà. Il ministro Gualtieri oggi ha detto anche giustamente che insomma la performance del terzo trimestre sarà di grande orgoglio e ci possiamo aspettare delle riprese anche eccezionali, perché lo denunciano le entrate fiscali legate già a questo mese. Tutti noi ovviamente lo speriamo con spirito patriottico e getteremo tutti il cuore oltre l'ostacolo. È vero che l'economia sta ripartendo, però è vero che l'autunno sarà molto duro perché c'è una situazione anomala nel mercato del lavoro che rischia di esplodere se il tema non verrà affrontato anche qui, sì, con in modo lungimirante e adatto ad affrontare la complessità anche che ci pone di fronte il nuovo tempo che stiamo vivendo su una tematica che è antica quanto è antica l'economia, quella del lavoro. Vuol dire che noi troppo spesso trattiamo in termini ideologici del vecchio Novecento. Sfide epocali, insomma, sui quali poi parleremo ulteriormente nelle prossime puntate. Grazie Alberto Rioli, certo. Buon lavoro, vice editore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia, ma si tratta proprio di pochi istanti. Ci ritroviamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E le notizie, lo sapete, le trovate qua, ve le racconto in sintesi all'inizio. Roberto Giordano sempre con voi in questa ripartenza, a proposito di ripartenza della stagione di Effetto notte, e a proposito di notizie, stavo vedendo questo aggiornamento del Comitato Tecnico Scientifico che dice: niente mascherina a scuola se viene rispettata la distanza di un metro. Nella scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione, ad esempio il canto. La scuola secondaria, dice il Comitato Tecnico Scientifico, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizioni, ripeto, insomma, questo concetto. Comunque ci sarà modo di aggiornarci ancora sulle misure relative alla scuola. Adesso invece ci aggiorniamo con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Marco Valsania. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Bentornato caro Marco, perché continuano gli scontri, in particolare a Portland, dopo il grave ferimento, è rimasto paralizzato, di un afroamericano, Jacob Blake, e Trump, il presidente americano, ha minacciato, dice: Portland è un caos, fate pulizia o lo farò io. E c'è il candidato democratico alle presidenziali di novembre, Biden, che dice: Donald si sente debole e fomenta la violenza. Tra l'altro ha confermato Trump che sarà nella città in questi giorni dove è stato ferito l'afroamericano, che è rimasto paralizzato. Esatto. La spirale di tensione in questo momento negli Stati Uniti, in quest'ultima fase della campagna elettorale, sta salendo molto, e sta salendo molto proprio sul problema delle proteste razziali e dei disordini e della violenza. Questo è quasi simboleggiato politicamente da questi due viaggi, diciamo, del presidente americano Donald Trump e del candidato democratico Joe Biden. Biden oggi è andato a Pittsburgh, oggi pomeriggio, dove ha tenuto un discorso in cui ha apertamente accusato Donald Trump, appunto, di fomentare la violenza, e ha posto agli americani la domanda: credete davvero che una rielezione di Donald Trump porti a una minore violenza? E ha dato la risposta: no, assolutamente no, perché Donald Trump ha trafficato in odio e violenza per anni, e la tensione e le violenze che si stanno verificando in realtà è responsabile dell'aggravarsi della situazione. Però Marco, Trump risponderà domani andando a Kenosha, in Wisconsin, dove c'è stato a sua volta gravi disordini. Però mi pare che dai sondaggi, Marco, Trump stia molto risalendo. C'era un grosso divario tra lui e Biden, vantaggio per Biden, però nei sondaggi sembra che stia recuperando parecchio, nonostante la gestione diciamo abbastanza inadeguata della pandemia di coronavirus e anche di questi disordini legati appunto alle violenze della polizia nei confronti di afroamericani, no? Che durano da diverso tempo. Sì, c'è sicuramente, diciamo, una riduzione del distacco. In realtà è abbastanza normale che dopo le convention dei due partiti, è abbastanza nella tradizione che i distacchi, diciamo, nei sondaggi si riducano, però questo d'altra parte dimostra anche come questa elezione presidenziale americana rimanga incerta, come il successo finale sia in gioco. Ecco, chi dava Trump per, comunque, diciamo così, spacciato, perché era molto indietro nei sondaggi diciamo dei mesi scorsi, ecco, e peccava sicuramente di giudizi troppo, troppo affrettati. A questo punto si tratterà di vedere quale delle due Americhe diciamo così prevarrà alle urne e quale sarà l'efficacia delle due campagne elettorali. Le strategie sono abbastanza chiare. Trump raddoppia sul messaggio di legge e ordine e punta a mobilitare la propria base, quella, diciamo così, quella sicura, ma portarla ancora più al voto, la base dell'America rurale, dell'America che fatica ad adattarsi alle riforme, alla trasformazione, senza anche avere particolare paura di sollevare anche, di sfoderare toni anche razzisti, toni molto, molto pesanti, e dall'altra una strategia democratica che punta invece a rispondere con un messaggio di riforme sociali che dovrebbero sanare così le ferite profonde lasciate dalle crisi nel paese, che sono ferite sia nelle relazioni razziali, ma, come ricordavi, anche a livello di risposta alla pandemia e risposta alla crisi economica che la pandemia ha scatenato. Quindi, ecco, queste due strategie sono adesso a questo punto a confronto anche abbastanza violento. Vedremo come prosegue, come si evolve la situazione da qui fino a novembre, appunto, quando ci saranno le presidenziali. Tante cose possono cambiare. Comunque seguiamo man mano. Grazie a Marco Valsania che ci racconta dagli Stati Uniti. Grazie Marco, un grazie abbraccio e bentornato. Invece adesso ci occupiamo di qualcosa di un pochino più leggero, anche se a sua volta strettamente legato al coronavirus per alcune notizie, come lo è lo sport in genere, il calcio, con il nostro Dario Ricci. Caro Dario. Eccoci qua, cara Roberta, ma ieri sera che hai fatto? Devo dirlo così, no, in pubblico. Non mi dire che non hai visto la partita. La finale. E non la vedo Sky, non la vedo. C'è stata la finale femminile della Champions League femminile, ma tu, ti fornisco l'alibi, sì, perché sì, chiaramente la colpa è molto grave. Non è stata trasmessa in Italia. Appunto, Lione, per quello dicevo Wolfsburg, io. Lione-Wolfsburg, quindi vabbè che tu non hai Sky. Però ma non anche, sono neanche all'estero. Anche avendolo avuto non avresti potuto vederlo. E comunque, ti sei perso un grande spettacolo, perché 3-1 per il Lione, che ha vinto la quinta coppa consecutiva. Insomma, calcio femminile. No, perché so che tu sei tifosa, ma lo vedi poco. vedere poco. Dobbiamo organizzarci con qualche pizza con tutti i tuoi amici e le tue popcorn, amiche distanziate, ma per goderci qualche bella partita di calcio femminile insieme. E urli e gioia e grida di gioia. Bene, mi fa piacere che mi hai colta così prima di tutto con questa notizia. Mi stai educando ci abbracciamo dopo così a distanza. Io vedo solo calcio femminile, non riconosco neppure più Ronaldo e Messi per strada. Però se proprio vogliamo dedicare due minuti anche al calcio maschile, te lo concedo. Facciamolo, no, più che altro perché abbiamo una data che è quella della ripartenza della Serie A, 19 e 20 settembre, maschile, molto importante, e chiaramente Serie A che prova a ripartire. Questa settimana ripartirà invece già la nazionale, che è in ritiro da un paio di giorni a Coverciano. Perché? Perché venerdì sera c'è la sfida con la Bosnia a Firenze, lunedì sera ad Amsterdam contro l'Olanda. Entrambe le gare valgono per quella Nations League, che è il torneo in cui Roberto Mancini, di fatto dopo il flop dei mondiali del 2018, iniziò a plasmare quella nazionale che così bene si stava avvicinando agli europei, che poi, come ben sappiamo, a causa di forza maggiore sono stati rinviati al prossimo giugno. Si ricomincia da lì con un mix sempre di giovani talenti e giocatori esperti, e al tempo stesso si guarda anche con timore chiaramente alla situazione contingente, sperando che migliori, ma abbiamo visto la notizia dei 3 positivi Atalanta nel gruppo squadra dell'Atalanta. Non dobbiamo sconvolgerci per queste cose, perché è inevitabile, c'è un protocollo per gestirli. Il presidente federale Gravina, tra l'altro, ha chiesto al CTS, al Comitato Tecnico Scientifico, di prendere in considerazione due ipotesi. L'una, quella di rendere un pochino meno invasivi e frequenti i tamponi per i calciatori professionisti, che in effetti in questo periodo sono stati sottoposti, come tutti gli sportivi che hanno potuto fare sport, a un vero e proprio tour de force. E poi anche quello di prendere in considerazione l'ipotesi, credo realisticamente verso ottobre, di poter magari aprire piccole porzioni dei nostri stadi a piccole rappresentanze dei tifosi. Qualche esperimento si è già fatto all'estero, ma anche in Italia. Mi viene in mente il triangolare che ha visto impegnato in campo il Napoli un paio di giorni fa, è stato positivo. Ci sarà poi la finale della Supercoppa Europea a Budapest, in cui dovrebbero essere coinvolti una 15.000 persone sugli spalti, non pochi, visti i tempi che corrono. Speriamo che con la giusta cautela, però, la gente possa riapproparsi del suo calcio. Senti, Dario, per chiudere, ti ricordi le marcatrici della finale ieri di Champions? No, però ha segnato una giocatrice giapponese che è una delle più forti al mondo, ha fatto uno splendido gol. Beh, oddio, forse anche un po' casuale. Devo dire ultime partite. No, perché per te tutto quello che è il calcio femminile è tutto Maradona. In realtà ieri è stato i portieri, sopra il portiere del Wolfsburg, penosa, direi, nella sua prestazione. Vabbè, ma è un giudizio tecnico, spero si possa dare. Non so, darei un bel 4 in pagella alla portiera, un bel 4 che è tanto liberatorio, ecco, come direbbe Benigni. Informeremo. Io quella la boccio. Così severo. Grazie caro Dario Ricci, ci sentiamo nei prossimi giorni. Adesso qui si chiude questa puntata, però tanto ci riaggiorniamo, torno ratta con la Folgore alle 22. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.